The source of my optimism is the rapid and even exponential rise of our ability to control nature through information technology. La fonte del mio ottimismo è la rapida ed esponenziale crescita della nostra abilità di controllare la natura attraverso la tecnologia dell'informazione. Visto l'enorme potere della tecnologia dell'informazione e il potere enorme delle corporation e degli stati che utilizzano questa tecnologia, il pericolo è che ci troviamo a confrontarci con molti argomenti che dicono: tu, essere umano, non dovresti avere alcun diritto di controllare questa macchina. Ovviamente questi argomenti vengono dalla Silicon Valley, ma sono venuti anche dalla sinistra. Io vengo dalla sinistra, sono un attivista della sinistra britannica, ma così tante persone giovani vengono istruite nella tradizione postmoderna e postumanista che insegna loro che sono già macchine, che sono già macchine inferiori ai computer, che possono svilupparsi molto meglio di noi. Questo è il messaggio che viene dato loro: sei già un algoritmo. So I wanted to ground resistance to machine control. Io vorrei fondare la resistenza al controllo delle macchine su una forma di umanesimo radicale. Se avessimo tempo vi spiegherei da dove traggo l'idea di un umanesimo scientifico antropologico. Il titolo del libro in inglese è Una difesa radicale dell'essere umano e penso che per me questa difesa possa essere basata sul vantaggio assoluto della scienza e dell'antropologia evoluzionistica. Più apprendiamo dalla biologia dei grandi primati e della nostra biologia, più diventa chiaro che i passaggi evolutivi che ci hanno creati devono essere legati all'emergere della cooperazione e l'essere umano che voglio difendere è, nel nostro DNA, nella nostra realtà evolutiva, un cooperante, un essere che lavora in gruppo, che è in grado di immaginare, e un linguista. Questi sono gli aspetti della nostra realtà evolutiva. Su questa base è possibile supporre che possiamo liberarci. Possiamo liberarci usando l'immaginazione, la tecnologia e il lavoro di gruppo. È una proposta teleologica. Io sono spudoratamente teleologico. Io credo che gli esseri umani si siano evoluti con uno scopo, quello di liberarsi. Questo per me è radicato nel marxismo della prima ora, ma capisco che si sovrappone con l'umanesimo liberale.